Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua per la terza giornata di ritorno di basket. Roberto Scaltritti in regia, Giorgio De Luca in redazione. Oh, piccola digressione calcistica. Sembra che Pazzini si sia fatto male nel riscaldamento a San Siro e allora all'esordio di Balotelli potrebbe arrivare in maglia rossonera addirittura dal primo minuto in coppia con Esharawi. Beh, staremo a vedere. Andiamo però sul parquet, sui risultati di una giornata che ha visto un bellissimo big match all'ora di pranzo con la Che Bolletta Cantù che ha battuto 94-80 il banco di Sardegna-Sassari, e un altrettanto bello è in corso ora a Siena dopo il Montepaschi. Sta reagendo alla grande alla prima sconfitta in Eurolega e sta mettendo sotto di brutto 35-19 quando siamo intorno al tredicesimo la capolista, la Cimberio Varese. Beh, fra poco andiamo anche a Siena, ma ora vediamo gli altri risultati con una Milano che passeggia sulla Sidigas Avellino per 108-57. Torna al successo della Saie 3 Bologna dopo 7 sconfitte consecutive contro la Sutor Montegranaro 83-80 per le Vunnere. Continua l'ascesa di Venezia, l'Umana Reyer supera una Coriace a Scavolini Banca Marche Pesaro 71-68. Netto invece il successo della Vanoli Cremona su Nell'Enel Brindisi 97-81. Di un punto dopo un tempo supplementare, il successo esterno importante per la lotta salvezza dell'Angelico Biella sul campo della Juve Caserta 81-80, mentre la Trenkwalder Reggio Emilia ferma la corsa della CEA Roma 96-93, per una classifica che vede Varese in testa con 30 punti e al di là del risultato di stasera, chiaramente prima posizione che è già al sicuro visto la sconfitta di Sassari che resta a quota 28, Siena a 24, staremo a vedere se salirà di un gradino insieme per il momento con Roma e Cantù. 22 punti per Milano, 20 per Venezia, 18 per Brindisi e Reggio Emilia, 16 punti per Caserta, quota 14 Bologna e Cremona, 10 punti per Montegranaro e a quota 8 Biella, aggancia Pesaro e Avellino sul fondo, quindi lotta salvezza anche più che mai aperta. Andiamo subito a Siena però da il nostro Massimo Sollazzini per sapere come sta andando questo big match serale della terza giornata, una Montepaschi, Massimo, che sta reagendo alla grande alla prima battuta d'arresto in Eurolega, vero? Buonasera Massimo. Sì, buonasera da Palestra di Siena, 5:32 al termine del secondo quarto e Siena avanti di 15 lunghezze, siamo sul 38-23 con Vittor Sanichiz in lunetta per i padroni di casa. Vittor Sanichiz è l'uomo in più di questo secondo quarto, è entrato, ha messo a segno subito due canestri e adesso il terzo. Una partita che ha preso la prima svolta a metà del primo quarto con un allungo di Siena di 13 lunghezze che l'ha portata appunto sul 25-12, soprattutto per merito di quel Bobo Brown che è al momento il miglior marcatore la partita con 12 punti, ma va detto anche per demerito di certe distrazioni, di un certo nervosismo messo in mostra da i giocatori di Varese, soprattutto in regia per quanto riguarda Banks e Green. Le due squadre che hanno il tiro migliore da tre, peraltro stasera non lo stanno assolutamente sfoderando, Siena ha un 2 su 7, Varese addirittura un 1 su 7, ma si gioca molto intensamente sotto il perimetro, dove peraltro fino a pochi istanti fa Varese aveva anche un leggero dominio ai rimbalzi, però non nelle marcature, perché ripeto, a 5 minuti dal termine del secondo quarto siamo sul 39-25, in questo momento 40-25 per i padroni di casa. Grazie a Massimo Sollazzini, torneremo più tardi al Palaestra. Andiamo ora invece al Forum di Assago, dicevamo passeggiata quella dell'Armani e a 7 Emporio Armani Milano sulla Sidigas Avellino 108-57. Direi Roberto Nardella, per quanto possa aver fatto bene Milano, una Sidigas ben al di sotto del minimo sindacale, Molto al di sotto del minimo sindacale la Sidigas di Avellino. Buonasera da parte mia. qui dal forum di Assago, del risultato avete appena raccontato voi, possiamo infarcirlo con un'altra statistica, quella della valutazione 136 per Milano a 16 per Avellino, e questo vi rende abbastanza l'idea di quanto si è visto stasera qui al forum di Assago. La partita c'è stata fino al 34-32 di Milano con Avellino in rimonta dopo l'inizio incredibile di Borusis grazie all'ingresso in campo di Spinelli, poi il nulla, 31-7 il parziale del solo terzo periodo per l'Olimpia che ha mandato KO con l'82-46 del trentesimo Avellino. Io coinvolgo anche il collega Sandro Pugliese, firma del quotidiano Il Giorno, qui al mio fianco per una sua opinione su questa partita francamente a senso unico. Sì, l'opinione più che altro è che è il miglior viatico per Milano per arrivare alla Coppa Italia, un più 51 inusuale a questo livello, ma che ha visto un Olimpia che ha coinvolto tutti i 10 giocatori andati referto, che hanno giocato bene, che hanno segnato tanto, con un Green che ha letteralmente in pugno la squadra e con un Borussis dominante da 25 punti e 9 rimbalzi. È vero che Avellino era praticamente senza lunghi, ma Borussis là dentro è sempre più un fattore. E come raccontava giustamente il collega Sandro Pugliese, partita spettacolare di Ioannis Borusis, 25 punti per lui con 8 su 10 dal campo, 36 di valutazione, vero e proprio MVP della partita. Ecco Roberto, dicevamo prossima settimana Final Eight proprio al Forum, sarà subito Milano-Varese, direi una Milano che ha cambiato totalmente pelle da qualche domenica a questa parte, una volta ritrovate alcune certezze dello scorso anno e aggiunto nel roster Marques Green che oggi è stato il grande ex di giornata. A proposito, come ha giocato? A proposito come ha giocato, direi che ha giocato bene ma senza eccedere, perché comunque ci sono stati per lui 5 punti con 4 assist e 9 di valutazioni in tutto in 16 minuti e 30 sul parquet, dunque Scariolo non l'ha spremuto, non ce n'era francamente bisogno, ha segnato la tripla che ha dato il più 20 all'Olimpia, da lì in poi è iniziata la marea per Milano che è arrivata addirittura anche a scollinare oltre quota più 50, e Marques Green però ora dovrà dimostrare di essere pronto anche per le sfide di Coppa Italia che Milano ovviamente si augura possano essere 3 da giovedì a domenica. Eh sì, insomma, grande spettacolo al Forum che ritrova dopo tanti anni finalmente le Final Eight. Grazie a Roberto Nardella. Andiamo subito a Caserta da Carmelo Presti Simone. Carmelo, ben ritrovato. Bel successo d'orgoglio di Biella che dimostra che il suo campionato è tutt'altro che finito e anzi ricomincia proprio a partire da stasera, eh? Esattamente Dario, ricomincia a partire da stasera il campionato di Biella che infligge una brutta sconfitta alla Juve Caserta che con un secondo e un terzo periodo sciagurato, 16-25, 11-19 i parziali per i piemontesi, Caserta dilapida il più 12 del primo periodo e gioca una partita praticamente sempre in sofferenza contro Biella che non ha mai mollato, ci ha creduto e l'ha spuntata al supplementare dopo un tempo supplementare 81-80, un overtime raggiunto in maniera rocambolesca da Caserta con un canestro a un secondo dalla fine di Jelovac, poi il supplementare, continui vantaggi dall'una e dall'altra parte, tiri liberi e falli all'ingrosso, poi sul più uno con 10 secondi da giocare Caserta non riesce a segnare il canestro della staffa, Biella esulta mostrando i muscoli nella zona bassa della classifica e soprattutto inghiottendo Avellino che da stasera praticamente è ultima in classifica in virtù degli scontri diretti praticamente tutti persi. Biella che quindi insomma conquista 2 punti importanti, una curiosità che ci ha raccontato poco fa coach Cancellieri in conferenza stampa, la squadra praticamente non è riuscita a atterrare a Napoli, è atterrata a Bari con l'aereo, il bus per arrivare da Bari a Caserta a un certo punto della strada, dell'autostrada, si è fermato in panne, poi naturalmente i piemontesi però sono riusciti così a vincere questa partita, questa giornata non partita proprio, non iniziata nel migliore dei modi. Ti vado a leggere, Dario, le cifre, lo scout soprattutto dei piemontesi, i vincitori con Pinkney, il nuovo arrivato, 17 punti, 9 rimbalzi, Rochester 15 punti, Soragna 15 con 5 su 8 da 2 e 1 su 3 da 3. Caserta invece mette in vetrina il solito Akindele, doppia doppia, 23 punti, 14 rimbalzi, bene anche Mordente, 16 punti, bravo in termini proprio di leadership, e bravo anche Jelovac, 17 punti, 10 rimbalzi, gli altri casertani assolutamente non pervenuti. E beh, capita insomma anche nei migliori campionati di avere dei passaggi a vuoto, e sicuramente quello della Juve Caserta di Sacripanti, lo diciamo da settimane, è un grandissimo campionato, ma ci fa piacere anche rivedere un Angelico Biella decisamente più battagliera di quella che si era vista nell'ultimo paio di mesi. Beh, vorrei sfogliare con voi anche il tabellino di questa che bolletta Cantù, Banco di Sardegna Sassari 94-80, perché a mezzogiorno abbiamo visto davvero una bellissima partita staremo a vedere anche che partita farà Mario Balotelli, che adesso è ufficiale, parte titolare dal primo minuto, insomma sorpresa a San Siro fino a un certo punto, perché qualche minuto l'avrebbe comunque fatto sicuramente, ma l'infortunio di Pazzini gli regala una maglia da titolare. E allora, tornando invece a noi, dicevamo 94-80, partita spettacolare con un Aradori che ha siglato, pensate, i primi 12 punti Cantù, alla fine ne ha messi a segno 21 in 24 minuti, con 5 su 5 da 2, 3 su 3 da 3, solo ai liberi, e il Pietro Nazionale ha mancato qualche colpo, 2 su 5 appena. Buono l'esordio di Mancinelli per quanto riguarda Cantù, 10 punti in 17 minuti, e in tribuna poi a inizio secondo periodo è arrivato a salutare, diciamo, anche quel Marco Svili, di cui Mancinelli è il sostituto, visto che il Giorgiano ha firmato per in settimana per il Galatasaray Istanbul. 10 punti, dicevamo, con 2 su 4 da 2, 0 su 2, 2 su 2 anzi da 3 punti, e quindi insomma partita estremamente positiva essendo l'esordio. Poi 12 punti di Cousin, 15 di Tabu, 10 per Liunen e per Mazzarino, rivisto finalmente in graspolvero dopo qualche passaggio a vuoto nelle ultime partite. Per quanto riguarda Sassari, che pure ha tirato col 48% da 3 punti, non bastano i 21 punti di Travis Diner, i 16 di un altro grande ex, Bootsy Thornton, che ha tirato col 4 su 6 da 3 punti, 1 su 3 da 2 punti e 2 su 2 ai liberi, anche 3 rimbalzi ma anche 3 perse per Bootsy, e poi 14 punti per Drake Diner, che ha aggiunto anche 7 rimbalzi e 5 assist, sicuramente il più positivo tra gli uomini di Sacchetti, che in questi giorni, come tutto il basket italiano, ha pianto anche l'addio a un grande allenatore del nostro basket, Dido Guerrieri. Palla spicchi. Eccoci qua ancora insieme, terza giornata di ritorno, stavamo scorrendo un po' di tabellini, ma troviamo subito il nostro amico Stefano Valenti. Stefano, so che hai visto questa vittoria di Bologna sulla Sutor Montegranaro, beh, quasi un evento messianico, perché erano ben 2 mesi che Bologna non trovava il successo, vado a memoria, se non sbaglio erano 7 KO consecutivi, no Stefano? La memoria è ancora tua, buona allenata. Meno male, dai, almeno su quello. oggi la sconfitta sarebbe stata molto pesante alla luce della vittoria di Biella. Era di fatto uno scontro diretto, qui aleggiava anche il brutto ricordo della sconfitta con Cremona, che aveva già creato malumore in casa di Virtus, soprattutto tra i suoi tifosi. Stasera la sconfitta è stata evitata, è tornata la vittoria 83-80 il finale, in una partita che Bologna ha preso in mano nel terzo quarto, che ancora comandava di 12 a 6 minuti dalla fine, poi però c'è stato un parziale di 16 a 6 di Montegranaro, che tra l'altro è priva di Tamar Sway. Insomma, alla fine la partita si è risolta punto a punto, l'uomo della serata è stato Steven Smith, 28 punti, ed è stato lui che ha segnato un canestro molto importante a 1:20 dalla fine per un più 7 che rasserenava un po' gli animi, e poi ha messo anche i liberi del più 3. Sull'ultima rimessa dal fondo di Montegranaro c'è stato un lancio lungo, obiettivamente con poco senso, palla recuperata da Bologna e la partita è finita lì. Ecco Stefano, una panchina di Finelli che ritrova un po' di solidità grazie a questo successo, ma è stata effettivamente mai in dubbio malgrado questa lunga serie nera? Alle dichiarazioni ufficiali di Claudio Sabatini sì, nel senso che in questo momento di di grande difficoltà della squadra, la voce diciamo del numero uno del club, pur non essendo il presidente, è sempre stata di grande fiducia con l'allenatore e ipotesi di rinnovo, così come con riguardante i giocatori americani. Oggi ad esempio molto bene Steven Smith, ma ancora una prova molto deludente di Kenny Hasbrook. Finelli è solidamente l'allenatore della Virtus, che adesso ha intascato questo 2-0 con Montegranaro e alla ripresa del campionato avrà sul suo parquet BL Avellino. È un discorso strano parlando di Bologna, ma qui bisogna guardarsi alle spalle. In questo momento la realtà è questa: si voleva una squadra da playoff e anche da posizione alta di playoff. Oggi Bologna obiettivamente non vale assolutamente quelle posizioni, anche la partita di oggi hanno confermato difficoltà soprattutto in fase realizzativa. E allora meglio essere concreti e guardarsi prima alle spalle e vedremo poi. Chissà, intanto Balotelli quasi sfiora il gol, dopo 40 secondi un destro che sfiora il palo di Berkic e sarebbe stato il putiferio a San Siro, ma la partita è ancora lunga. Allora, grazie Stefano Valenti, oggi chiediamo un po' di pazienza agli appassionati di basket, perché qualche intermezzo calcistico ci sta anche bene, però anche qualche collegamento in diretta dal Palaestra. Ritorniamo sul big match di giornata, Siena Varese, Massimo Sollazzini. Sì, 9 secondi al termine della prima frazione di gara. Siena ha toccato poco fa il massimo vantaggio, più 17, in questo momento siamo sul più 16, che diventano più 18, proprio allo scadere del secondo quarto. Montepaschi 52, Cimpera Varese 34, e quindi un risultato effettivamente piuttosto rotondo, credo, al di sopra delle aspettative di questa sera. Varese che è sembrata meno carica, meno proiettata sulla partita di questa sera, in quanto non abbia messo in mostra invece la squadra di Banchi a partire dal primo minuto, ma vorrei dire anche nel secondo quarto, poi il ritmo della partita è andato rallentando, ma che Siena ha cominciato veramente un figlio contro il più aggressivo il primo quarto, squadrando Victor Sanichitte, che nel giro di 3-4 azioni è stato un Sanichitte Massimo davvero, davvero protagonista. Allora, grazie a Massimo Sollazzini, gli lasciamo qualche minuto per riprendere fiato dopo questo entusiasmante primo tempo dei toscani. Uno sguardo alla vittoria della Trenkwalder Reggio Emilia sulla Acea Roma 96-93, solita prestazione mostro di Donnell Taylor. Per quanto riguarda i reggiani, 30 punti in 33 minuti, 5 su 8 da 2, 4 su 6 da 3, 8 su 10 ai liberi, 3 perse, 5 recuperate, 6 assist per un 32 di valutazione. Non ho visto tutti i tabellini di giornata, ma ci vuol poco immaginare che se non è la miglior valutazione poco ci mancherà. 10 punti per Brunner sotto le plance, aggiunge anche 2 canestri, 12 per Antonutti che ritorna a tirare alla grande da 3 punti, 2 su 4 questa volta, 17 per Slanina in 24 minuti con un 2 su 3 da 2, un 3 su 4 da 3, 10 punti per Andrea Cinciarini. Per quanto riguarda Roma, 10 punti per Dercole, 22 per Gigi Datome, 5 su 8 da 2, 3 su 5 da 3, 3 su 3 ai liberi, 3 rimbalzi, anche 2 perse, 5 assist per un 27 di un 21 di valutazione. 27 è quello di Jordan Taylor, che di punti ne fa 18, 25-12 doppia doppia per Gani Laval, 10 su 14 da 2 e 5 su 10 ai liberi, torna a tirare male però dalla linea della carità, e 16 per Cheese, che torna a farsi vedere. In compenso, tra i romani sparisce nuovamente Bobby Jones, 2 punti in 9 minuti e soprattutto un Phil Goss che è davvero in parabola discendente, 0 punti in 26 minuti, 0 su 2 da 2, 0 su 3 da 3 punti. Ben trovato Flavio Tranquillo. Buonasera. Allora Flavio, beh, che bello, mi sono proprio divertito oggi tra Cantù e Sassari, è stata una partita tra due pugili che continuavano soprattutto nella prima parte a darsi delle mazzate incredibili, e invece di mettere l'avversario KO lo vedevano che si rialzava più forte di prima. Sì, concordo, è stata un'ottima partita, devo dire la migliore che ho visto in questa stagione. È ovvio che una ha vinto e una ha perso, ma per certi versi non ha perso nessuna delle due. Eh sì, si è visto davvero un bel basket, speriamo di vederne altrettanto di buono in queste Final Eight, visto che ci si ritroverà tutti con il meglio del campionato. Intanto Siena sta dando la paga a Varese, staremo a vedere come andrà a finire, ma insomma, se c'è una caratteristica dei campioni, dei pluricampioni d'Italia, è quella di non mollare mai, e lo dimostra la reazione a questo primo KO in Eurolega, no? Io credo che sia una squadra che ha sempre avuto forza di reazione, e questo è un momento ancora più particolare, quindi secondo me la forza di reazione diventa ancora più tale, perché quando ci sono tanti alti e bassi, le squadre con una componente nervosa così forte interpretano gli alti e magari anche i bassi, vedi Sassari, vedi Brindisi, in una certa maniera. È interessante, pensando sempre alle Final Eight, che ci troviamo un Varese-Milano con una tendenza opposta, no, rispetto a quella di inizio stagione, una Milano decisamente in ascesa, una Varese che, per carità, dovesse perdere questa sera inanellerebbe una delle poche sconfitte del campionato, ma che insomma qualche dubbio in più rispetto a un paio di mesi fa ce l'ha, no? Sì, ha qualche dubbio in più, qualche giocatore in meno, un bel po' di stanchezza e parecchie altre cose, però io direi due cose. La prima è che la Final Eight è molto divertente, però non è un verdetto definitivo, si gioca con una formula appunto che aumenta l'interesse, ma certo non ci garantisce una sicurezza di avere un esito tecnico definitivo, la prima cosa. La seconda cosa è che io, se fossi Milano, avrei più paura di questa Varese che di quella eventualmente che fosse arrivata a giocarsi la Coppa Italia con la sicurezza di una lunga serie di vittorie e il primo posto in campionato. Vado un po' controcorrente su questo. Beh, insomma, potrebbe arrivare un pochino più arrabbiata, perché Frank Vitucci, anzi, potrebbe approfittare, tra virgolette, di un capitombolo a Siena per toccare le corde giuste nello spogliatoio. Senti, in coda, bel successo di Biella a Caserta e partita ancora apertissima, visto che mentre Pesaro lotta e si sbuccia le ginocchia, Avellino sono più le volte che la corrente la stacca che di quelle che le accende la luce, no? Beh, diciamo che oggi Avellino non si è presentato a Milano, sono andato alla partita, ma non c'era Avellino, soprattutto non c'erano Linton Johnson e Ivanov, e quindi le possibilità di giocare erano un po' scarse. Assolutamente. Però sì, credo che Avellino sia una di quelle squadre che si guarderà dietro le spalle fino alla fine, indipendentemente dalle assenze, dalle influenze, eccetera, eccetera. Benissimo, grazie a Flavio Tranquilla, Roberto Scaltritti in regia e a Giorgio De Luca in redazione. Palla Spicchi torna domenica, io resto ancora a farvi un po' di compagnia con lo sport di Radio 24.